Cari amiche, cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando. Avrete riconosciuto Maridì chiaramente dalla voce, estremamente stanca e accaldata perché è un giorno veramente estivo. Sembra di stare a Napoli, anche se non lo siamo, ma sembra di esserlo. Benvenuti, benvenute, bentrovati, bentrovate. E, siamo particolarmente contenti, vi stiamo vivendo un'atmosfera mondiale, già che parliamo di mondiali. Tra meno di un'ora il Belgio giocherà l'opportunità di passare ai quarti di finale contro gli Stati Uniti, quindi auguriamo alla squadra nazionale ai Diavoli Rossi di Noi vincere facciamo il questa tifo per i sera. Diavoli Noi Rossi, facciamo il tifo per il ovviamente. Belgio, ovviamente, già che ci Ovviamente. resta poco E certo. da tifare per quello che riguarda il tricolore. Salutiamo in regia Dani M, Buona serata a tutti. Eccoci. il nostro Giorgetto, il nostro Georges Laurent e la nostra Fiordaliso. Buonasera. Questa sera è una puntata molto speciale. Abbiamo come ospite Marco Malvaldi, un autore che è stato già più volte con noi al telefono, cui ho avuto il piacere di incontrare personalmente durante il Salone del Libro di Torino e quindi siamo particolarmente contenti perché lo intervistiamo sulla sua ultima fatica letteraria, cioè Argento Vivo, che tanto successo sta riscuotendo in Italia, edito come ormai più di un romanzo di Marco Vivo, di Marco Malvaldi, pardon, da Sellerio, editore Palermo. Però questa sera è una puntata molto particolare perché probabilmente iniziamo un ciclo, chissà, almeno ce lo auguriamo. Ah, io me l'auguro vivissimamente, cioè Ecco. molto, molto, ancora di più. Quindi a proposito di Argento Vivo, veramente restiamo nel tema della vitalità perché questa sera sono con noi in radio, nei nostri studi, due giovanissimi studenti dell'Università di Gand, di Ghent, che dir si voglia, Eulalie, spero di averlo pronunciato correttamente. Quasi, Eulalie. Sì, va bene. È qua, sarebbe Eulalie. C'è Giorgio, per tutte le correzioni indirizzatevi a lui perché è lui che può correggere esattamente. E poi invece Casper. Buonasera. Entrambi studiano italiano, quindi vedrete che il livello di conoscenza della lingua italiana di questi due ragazzi è eccezionale, veramente egregio. Mi auguro un giorno di poter parlare olandese così come voi parlate l'italiano oggi. Ne approfitto per salutare la persona che ci ha permesso di avere i ragazzi qui con noi questa sera, la professoressa Mara Santi, che è per l'appunto docente di letteratura italiana all'Università di Gand. E ne approfittiamo anche per salutare anche l'università stessa, quindi gli studenti, non solo di italianistica, ma di tutti i dipartimenti. Eulalie, io lo dico all'italiana così evitiamo ogni problema. Raccontaci un po' di te brevemente, raccontaci come mai hai deciso di studiare l'italiano. Ho avuto l'opportunità bellissima di già a 17 anni studiare 3 mesi a un liceo scientifico in Italia, in Toscana. E dopo questa esperienza mi sono innamorata della lingua italiana e ho scelto di studiarla all'università. Questo anno ho finito il mio secondo anno e l'anno prossimo farò anche l'Erasmus a Bologna. Ah, ma questo vuol dire che in 2 anni si riesce a imparare italiano così in fretta? È incredibile. Beh, Imola Ottimo forse, l'Erasmus la a nostra Bologna. Fiordaliso forse ci può dare conferma, no? Fiordaliso, ci puoi confermare qualcosa? E in un batter d'occhio, guarda. L'italiano è una lingua semplice, sfatiamo questo mito di italiano, lingua difficile. E sono felicissimo perché Eulalie ha anche detto Toscana, quindi si è ricordata Ormai così l'Italia è parla nel inglese. sangue, ormai non c'è più. E l'ha detto anche con l'accento toscano. Dice con E quella te l'ha vaga imparato lì l'italiano, assibilazione, Giorgetto. bellissimo, Un giorno bellissimo. anch'io parlerò con l'accento di Anversa, va E bene? poi tornerà da Bologna parlando con i bolognesi, cioè un po' spinto, poi in questo modo qua. Bah, Bene. Giorgio, non credo, mi auguro proprio per l'Edino. Casper, invece, raccontaci della tua esperienza con l'italiano. Io vengo di una famiglia che ama molto l'Italia, poi da bambino sono stato sempre in vacanze in Italia e poi anche da me c'è cresciuto un grande amore per l'Italia. E poi ho fatto un anno di storia che non mi è piaciuto tanto e poi ho deciso di studiare le lingue, cioè italiano e francese. Bravo, quindi Grande. insomma hai capito che la tua passione era quella per le lingue e non quella per la storia. Questa è la prima esperienza radiofonica di Eulalie e Casper, quindi Io sono sicura che andrà tutto bene e già mi sembra che abbiamo iniziato bene. Avete studiato entrambi la letteratura durante il vostro semestre di italiano. C'è un autore, quindi cominciamo da Eulalie, che vi ha colpito particolarmente tra quelli studiati? Io ho letto molto di Calvino, Italo Calvino. Immenso Calvino. Casper. Io ho scritto la tesina su Cristo si è fermato a Eboli. Di Carlo Levi, di poesia mi è sempre piaciuto Ugo Foscolo. Sì. Ma qui abbiamo veramente dei livelli, ragazzi. Qui arriviamo stasera veramente... vogliamo molto alto. Preparatevi, Bruce Land questa sera vi regalerà delle belle emozioni. Non vi preoccupate, dopo io vi riporto a terra. Grazie. Sì, poi c'è il librangolo lì, effettivamente. Quindi spaziate dalla letteratura alla poesia, avete studiato l'Ottocento, il Novecento, oppure siete andati anche indietro, avete fatto autori tipo Boccaccio, Dante, Petrarca? No, Dante ci aspetta per il prossimo anno. Quindi insomma preparatevi, perché con Dante si cambia lingua in realtà, sì. Quindi preparatevi perché sarà un passo molto importante. E c'è invece un autore che vi piacerebbe studiare, di cui avete sentito parlare, che vi incuriosisce rispetto a quello che avete studiato finora? Scusa, non ho capito la domanda. Tra gli autori italiani, avete studiato degli autori, ce n'è uno in particolare su cui vorresti approfondire la vostra conoscenza? Ah certo, tutti. Lei, uno è esperto di Italo Calvino, l'altro è esperto di Foscolo. Ci sono degli autori moderni, no? Oppure degli autori moderni che vi piacciono, che conoscete, di cui avete letto qualcosa? Ho letto tutti i libri di Fabio Volo. Abbiamo una fan di Volo, caro Fabio. Un giorno avremo anche lui ospite in radio. Sì, ce l'avremo certamente, sarà felice di fare la conoscenza di E magari Eulalie tornerà con noi in radio. Spero. Allora, invece Casper? Io no, non sono ancora arrivato ai contemporanei. Ah, bene. Tranne Malvaldi, ovviamente. Tranne Malvaldi, quindi vabbè, qualcuno ha già annunciato Malvaldi. Ora lascia la parola a Meredì. Eh sì, Marco Malvaldi l'avevamo introdotto proprio in inizio, in apertura di trasmissione. Come sapete, di professione è un chimico, ha pubblicato per l'appunto con la Sellerio Editore molti romanzi, tra cui la serie fortunata del Barlume, di cui avevamo anche già parlato a Brussellando. Ricordiamo i titoli: La briscola in 5, Il gioco delle tre carte, Il re dei giochi, La carta più alta. E devo dire che sono dei romanzi che continuano ancora a riscuotere grande successo tra i lettori. Vi ricorderete che a Brussellando abbiamo anche parlato di Odore di chiuso, che è stato praticamente pubblicato qualche anno fa, nel 2011, con il protagonista principale, Pellegrino Artusi, e Milioni di milioni, che pure ha avuto molto successo a Brussellando. E questa sera invece parliamo di Argento Vivo, e questa volta Marco torna su un tema che è quello, diciamo, parliamo di crimine, parliamo di una rapina nella casa di uno scrittore, e nel parte del bottino vi è anche un computer in cui è salvato il suo ultimo romanzo, che ancora non ha consegnato alla casa editrice, incautamente non conservato in altro modo. Questi sono anche i rischi della tecnologia, di quelli che sono i vantaggi della tecnologia odierna, e da lì insomma nasce poi quella che è la storia, ma non vogliamo svelare molto perché altrimenti perderemo il gusto della lettura. Invece l'obiettivo è proprio quello di invogliarvi della lettura. Ma infatti io vorrei leggere una cosa che di solito non c'è e che è proprio la prima pagina. Beh, sentite qui la descrizione, stiamo parlando del gioco del i personaggi di questo libro. Allora, l'esperienza. Giacomo, giocatore di golf con la professione della scrittura, ama Paola ma a volte tenta di dimenticarselo. Paola, architetto, ama le cose belle e la vita tranquilla. Nonostante questo, ama anche Giacomo. Poi la gioventù, Leonardo, per vivere programma, per sopravvivere legge, ama Letizia. Letizia, per vivere insegna a leggere, per sopravvivere programma la vita a Leonardo, che ama, nonostante tutto, la legge. Corinna, agente scelto, abbondante di statura e un po' scarsa di prospettive. Poi il dottor Corradini, questore, un'alta carica dai bassi istinti. Questa è poesia. I malfattori, il gobbo, commerciante al dettaglio che vende a dosi. Per chi capisce. Gutta, se lo vedi lo riconosci, l'importante è che non sia lui a riconoscere te. E poi i tecnici, Costantino, disoccupato e preoccupato, la variabile impazzita. Tenasso, ingegnere, una costante universale. E poi la casa editrice, Angelica. Editor di Giacomo, lei si definisce una professionista. Anche Giacomo la definisce spesso una professionista, ma in un altro settore. E poi il dottor Luzzati, editore, anziano, gentile e cardiopatico. Legge molto, pubblica poco, dorme pochissimo e non ride mai. Marco, benvenuto a Radio Alma, brussellando. Grazie, salve a tutti, buona serata. Ciao Marco. Buonasera. Marco, questa sera è una puntata molto speciale qui a Brussellando. Abbiamo con noi in radio due giovanissimi studenti di lingua italiana dell'Università di Lyon, i quali sono molto felici di poter partecipare alla tua intervista, ma devi sapere che uno dei due ragazzi già ha avuto il piacere di incontrarti recentemente, proprio nell'occasione di una tua presentazione di Argento Vivo in Italia, quindi siamo doppiamente contenti di questa felice e fortunata coincidenza, e questa sera saranno loro a porti le domande principali rispetto ad Argento Vivo. Bene, io sono qui, ne sono contento che non gli sia bastata evidentemente una sola presentazione. Vabbè, ma comunque siamo qua. Eccoci. Bene. Adesso lasciamo a loro fare le domande, quindi Casper. Casper. Andate. Signor Malvaldi, buonasera. È Casper. Primo vorrei sapere, c'è un legame tra la sua carriera accademica di chimico e la sua scrittura? Io direi di sì, più che altro perché io sono nato come scrittore mentre mi annoiavo facendo il chimico, perché il chimico è un mestiere abbastanza strano, ha dei tempi morti piuttosto lunghi, e quindi questi tempi morti si riempono nei modi più disparati. E io quando facevo la tesi di laurea, io sono un chimico teorico, lavoravo solo esclusivamente al computer, avevo davanti questo computer e non sapendo cosa fare avevo due scelte, o i videogiochi oppure mi mettevo a scrivere. Mi sono messo a scrivere e la cosa è andata in questo modo, però scherzi a parte, il fatto è che una materia come la chimica, in generale la scienza, ti costringe ad imparare alcune attitudini da scrittore, ti costringe a imparare la sintesi, mai usare 10 parole quando ne bastano 2, ti costringe a tenere sveglia l'attenzione di chi ti legge, perché quando scrivi articoli scientifici di solito noiosissimi che trattano di argomenti come le risonanze multifotoniche, argomento che è noto a poche persone e c'è un motivo, però è bello. Devi fare di tutto per fare sì che chi ti legge, oltre a capire quello che dici, legga anche l'articolo, sia interessato a quello che dici, visto che l'argomento già di per sé non è accattivante. Quindi si imparano tante cose scrivendo di scienza, quindi credo di aver imparato parecchie cose dalla mia precedente professione, sì. Grazie. Grazie a te. Vorrei ancora sapere anche quali sono le sue influenze letterarie i più significative, veramente. Dunque, qui mi si apre un mondo. Come gialli, io sono un giallista e amo i gialli classici, Agatha Christie, Rex Stout, questi Patricia Highsmith, i grandi classici. Come influenze letterarie, un po' di tutto. A me piacciono in generale i maestri dello stile, quelli che magari non dicono niente, ma lo dicono benissimo. Giovanni Guareschi, per citare un italiano, ma ce ne sono moltissimi altri, Mordecai Richler, che è uno scrittore canadese. Grande. Però Peter Sellers, stiamo parlando. Da vista dell'umorismo sono abbastanza globale. C'è l'umorismo italiano, quello di Guareschi, appunto. C'è l'umorismo ebraico, principalmente quello di Groucho Marx, che era un bravo attore, un bravo cabarettista, ma era soprattutto un grandissimo scrittore di lettere. Le lettere di Groucho Marx sono una delle letture più spassose che si possano fare, e poi i grandi umoristi inglesi, Woodhouse, Jerome e Douglas Adams principalmente. Sono un po' un onnivoro, e poi ho una, da chimico ho una venerazione assoluta per Primo Levi, che secondo me è uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. Nessuno da noi, cioè scrittori olandesi o belghe? Bella domanda. Di scrittori olandesi, vabbè, di scrittori belgi ce n'è uno, diciamo, che è fuori categoria, Sibenon. Insieme a Sciascia e a Durrematt è uno dei tre che ha, diciamo, trasformato il giallo in letteratura. Di scrittori olandesi mi piace molto, adesso in questo momento non mi sovviene il nome, Herman Koch, Villetta con piscina. Koch, sì, Herman Koch. Che è uno che mi piace abbastanza, una scrittura briosa, cattiva, però uno di quei rari casi in cui uno scrive di cose tremende, però riuscendo a mantenere alto il tono dell'umore, non è facile. Grazie. Lei ci ha parlato della sua vita come scrittore, però anche un personaggio del suo libro, il personaggio di Giacomo, è un scrittore. Io vorrei sapere se il personaggio di Giacomo si potrebbe dire che è il suo alter ego o no? Dunque, il personaggio di Giacomo in realtà sono un po' le mie paure, alcune spero forse realizzate, altre no. La paura di perdere il libro da cui è nato proprio Il Sento Vivo, perché il mio precedente romanzo, Milioni di Milioni, ha avuto una circostanza piuttosto fortunata. Io sono un chimico, mia moglie è una chimica, abbiamo un bambino che è uno sperimentatore nato. E un giorno questo bambino ha deciso di fare un esperimento, ha deciso di cercare di capire che rumore faceva il computer portatile di babbo quando lasciato cadere da un metro d'altezza. Il computer in questione fa un rumore molto brutto e si schianta al suolo, con grande dolore di babbo, perché dentro quel computer c'era il mio ultimo romanzo, non salvato da nessuna parte. Quindi sono riuscito in qualche modo a recuperare quel romanzo, però la possibilità di poter perdere in un secondo tutto quello che avevo scritto fino a quel momento, da quel momento, ecco, è una paura che mi è cominciata a venire. Poi la paura della ripetitività è una delle cose che gli scrittori seriali hanno, chiaramente, non si può evitare in nessun modo. E poi la paura di non essere letto bene a sufficienza dalla casa editrice, perché un romanzo è una cosa che ha una gestazione a volte anche un pochino faticosa. La prima versione di un romanzo e quella che esce poi effettivamente in libreria possono essere molto diverse. In questo gioca molto la figura dell'editor, una persona che legge il tuo libro in casa editrice e che ti dice cosa c'è che non va e cosa invece sì, è un po' il tuo allenatore. Quindi l'assenza a volte di questa figura, fortunatamente non è il mio caso, meglio non ancora, a volte può giocare dei brutti scherzi, ecco, possono venire fuori delle cose veramente illeggibili. Lei ci ha detto che nel suo romanzo si parla di un furto di un romanzo che è stato perso. Dove lei ha trovato questa idea di incorporare un romanzo in un romanzo? Allora, l'idea è nata dal fatto che due dei romanzi che amo di più, nessuno dei due olandesi o belgi è nato per questo, che sono appunto L'asino d'oro di Lucio Apuleio e Il maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov, effettivamente hanno una caratteristica, che è quella di avere un romanzo nel romanzo, che in entrambi i libri è la parte in assoluto più bella del libro stesso. La storia di amore psiche di Apuleio e la storia di Pilato nel Maestro e Margherita sono due vertici della letteratura di tutti i tempi. Quindi ho detto, l'ho fatto Apuleio, l'ho fatto Bulgakov, può provarci anche il Manvaldi, tutto sommato. Era un piccolo gioco, una piccola citazione che mi ha divertito. Mi è divertito l'idea di far vedere che genere di romanzo stesse scrivendo Giacomo in quel momento, anche perché io sono uno scrittore umoristico, almeno mi reputo uno scrittore umoristico, e come tutti gli umoristi a volte ho la tentazione, la tendenza a credere che non mi si prenda sul serio, quindi volevo far vedere che anch'io, volendo, potendo, sarei in grado di scrivere qualcosa di serio. Non so se ci sono riuscito, a essere completamente sincero, però la mia intenzione era anche quella. Casper. Signore, fino a che punto i personaggi del suo libro riflettono una sua filosofia particolare o forse criticano la società? Penso ad esempio al passaggio sui valori rumeni, il piccolo discorso che fa Corinna. Sì, dunque, questa è una delle questioni vecchie come il mondo in Italia. L'Italia è un paese che non ha ancora assorbito e capito bene un fenomeno come l'immigrazione, il che è abbastanza sorprendente, visto che fino a 50 anni fa andavamo in giro con le valigie di cartone per tutto il mondo. Però ancora in Italia ci sono delle nazionalità e delle etnie che vengono guardate con sospetto, fra l'altro paradossalmente proprio quelle più vicine a noi, i rumeni, con i quali condividiamo una lingua che è praticamente identica, e gli abitanti della parte inferiore del bacino del Mediterraneo. Appunto, Lucio Apuleio, lo scrittore che citavo prima, era di fatto di nascita tunisino, anche se era di cultura romana. Quindi è un qualcosa che a me lascia un attimino imbarazzato, sempre il vedere che una persona viene giudicata dalla propria nazionalità, in questo modo mettendo una poliziotta appunto di origine romena, ma che fa uno dei lavori italiani per eccellenza, tento in qualche modo, prendendola in giro, di criticare sicuramente questa caratteristica, perché una nazione cresce anche nella diversità. Più cose diverse, più persone diverse entrano in quella nazione, più cose si sanno fare e più cresce la cultura e quindi la potenzialità di quella nazione. Non è un caso che in questo momento gli Stati Uniti, o per parlare dell'Europa, posti realmente multiculturali come ad esempio l'Olanda, siano ai vertici della cultura. Per gli Stati Uniti forse è una parola forte, ma diciamo ai massimi livelli delle potenzialità mondiali. Fa anche qualche riferimento al pop culture nella società contemporanea. Qual è il suo avviso su questo? Sulla pop culture? Scusa? Sì, come Facebook, i talent show, la biografia di Ibrahimovic. Vabbè, su Ibrahimovic rimpiango solo che non sia italiano. Ha ragione. Avremo bisogno di far giocare Balotelli, che è un grande giocatore, purtroppo nato senza neuroni. Peccato che c'è chi crede in lui, quindi dobbiamo accontentarci anche di avere un calciatore senza neuroni. È devastante, purtroppo dovrebbe accenderla quella cosa che c'ha sotto gli occhi. Niente, a parte questo, i talent show secondo me sono una cosa aberrante, perché l'idea stessa di talento secondo me è sbagliata in partenza. Molte delle nostre caratteristiche positive si costruiscono col lavoro, col sacrificio e col sudore. L'idea che si premi il talento senza dover passare per quella cosa che si chiama studio, per quella cosa che si chiama gavetta, dà un messaggio secondo me sbagliato, cioè impegnati in questa cosa solo per ottenere il successo, non ti impegnare in questa cosa perché ti piace, perché potresti diventare una persona migliore facendola, impegnati solo se vedi la possibilità di successo, altrimenti chi se ne frega. Sarebbe un mondo ben brutto se non esistessero i suonatori dilettanti di violino, i calciatori dilettanti e cose del genere. Per quale motivo dovrei fare praticare una qualsiasi arte solo da professionista? È abbastanza aberrante. Per questo penso che lancino, per usare una parole da sociologia da quattro soldi, penso che lancino dei messaggi sbagliati. Grazie, io sono arrivato alla mia ultima domanda. Sì? Ha condotto molte ricerche nel mondo sul mondo criminale pisano? Sul mondo criminale pisano? Sì. No, in realtà no, perché diciamo i miei crimini sono sempre crimini all'acqua di rose. Ho degli amici che lavorano in polizia e che mi spiegano più o meno in che modo si svolgono le cose quando bisogna indagare o quando bisogna insomma, costringere qualcuno a privarsi della propria libertà, però non sono un criminologo. Okay. A volte questi programmi di criminologia mi consultano, ma anche con una certa serenità spiego loro che non sono assolutamente competente a parlare di delitti veri. Ok, io vorrei tornare un attimo al libro. Il romanzo non contiene solo un gioco di coppie, ma è anche un gioco di, direi, di lingua, perché è pieno di giochi di parole. Perché ha scelto di integrare questi elementi umoristici nel giallo, in un romanzo del genere del giallo? Beh, perché io mi ritengo principalmente un umorista e la scelta del giallo fa parte anche del mio genere, perché non ci si aspetta di solito di ridere leggendo un giallo, una qualsiasi storia che parli di morti ammazzati o di crimini. Sono stati veramente molto pochi gli scrittori che sono riusciti a scrivere gialli comici efficaci. Ne vengono in mente solo due, che sono Frederick Dard, il commissario San Antonio per intenderci, e Donald Westlake. Per il resto non c'è praticamente niente, però è molto importante per far ridere innanzitutto dire qualcosa di inaspettato rispetto al contesto. Non è una cosa che mi sono inventato io, chiaramente lo diceva già Bergson all'inizio del secolo, però non c'è un contesto più appropriato da questo punto di vista di un morto ammazzato. Nessuno si aspetta che uno si metta a far ridere parlando di crimini, di omicidi, di sgozzamenti e compagnia bella, ecco. Quindi fa parte un po' del genere anche questo. Marco, noi penso abbiamo fatto un po' veramente il punto della situazione sul tuo romanzo, quindi saremmo curiosi di sapere invece che cosa bolle in pentola. Stai già scrivendo a qualcosa? Stai già pensando ad altro? Immagino probabilmente di sì. Uscirà qualcosa in estate come lo scorso anno? Sì, dunque, allora, è uscito da poco un libro che non ha niente a che vedere con i romanzi. È un saggio divulgativo sul calcolo elettronico, sugli algoritmi e sulla nascita del computer, scritto a quattro mani con un fisico di Pisa, Dino Leporini. E sto scrivendo, in questo momento sto terminando il quinto libro della saga dei vecchietti, diciamo. Quindi ritorna il barlume, i protagonisti del barlume. Sì, non potrei abbandonarli, anche perché sennò l'editore mi taglia le dita, ecco. Questo è uno dei problemi, si fa per dire, di un autore che ha un certo successo e che diventa un attimino schiavo dei propri personaggi. Chiaramente lavorare è molto peggio, però c'è anche questo piccolo problema, quindi io sto tentando di fare in modo di non diventare l'imitatore di me stesso, cosa, però non so se ci riuscirò, ecco, ci provo. Allora, io ho una bella domanda, a parte che sentire citare Mordecai Richter, che io associo a Peter Sellers, perché lavorano insieme per un sacco di tempo, è stata una cosa bellissima, la grande. Mi viene in mente però, quando si parlava del romanzo nel romanzo, qui lo volevo citare perché a me è un autore che mi è sempre piaciuto tantissimo, ma un po' dimenticato, che è Giuseppe Berto, che nel Male Oscuro anche lui citava. Ah, il Male Oscuro. Che citava qualcuno che scriveva e faceva fatica a scrivere, non riusciva mai a uscire. E poi una domanda, anzi due domande. Una, la seconda, che cos'è la risonanza multifotonica, che a me personalmente interessa molto, ma l'altra è, da chimico, e quindi lo chiedo al chimico che però ha capacità di scrittura, ed è, sappiamo che il senso della vita, dell'universo e tutto quanto è 42, ma ci sono anche delle conferme chimiche? Beh, sul fatto che il mondo sia permeato di 42 non c'è da dubitarne, chiunque si azzardi a farlo credo che debba essere sterminato direttamente dai Vogon. Sul fatto che sulla risonanza multifotonica, purtroppo è un programma, quanto dura ancora il programma, perché avrei bisogno di 7-8 orette di Dai, una frase al volo per sintetizzare, per dare un'idea della risonanza multifotonica. Sarebbe un po' come mettere in fila 5 diapason uno sull'altro e riuscire a farli risuonare contemporaneamente. E mi sembra essere già una risposta. Bravi, ma se ci si riesce viene fuori un casino veramente bellissimo. Bellissimo. Marco, noi ti ringraziamo veramente della disponibilità, come sempre. Speriamo di rivederci prossimamente, magari in una delle prossime, in uno dei prossimi saloni del libro, chissà. E ci auguriamo di leggerti quindi presto. Puoi ricordarci il libro di cui parlavi prima, quello sulla l'ultimo libro che hai scritto? Sul calcolo, esatto, sul calcolo. Si intitola Capra e calcoli. Il sottotitolo: L'eterna lotta fra gli algoritmi e il caos. Edito da? Te lo ricordi? La Terza. Editori La Terza di Bari. Ah, ok, quindi Editori La Terza. Quindi per i nostri amici all'ascolto, a parte Argento Vivo, di cui vi consigliamo vivamente la lettura, vi consigliamo anche questa eterna lotta che pare veramente non finire mai. Marco, noi ti ringraziamo, ti auguriamo delle buone e serene vacanze. Grazie, buona serata anche a voi e grazie come sempre dell'invito, è sempre un piacere. A prestissimo, il piacere è tutto nostro. Arrivederci. Grazie. Buona serata. Ciao. Eccoci qui, cari amiche e cari amici, per questa puntata di Brussellando che quando vede come ospite Marco Malvaldi veramente potrebbe andare avanti per ore, ma siamo concentrati veramente in 57 velocissimi minuti. Se tutto va bene, perché la linea al telefono questa sera sembra essere capricciosa, perché ci è voluto qualche minuto di più per sentire Marco Malvaldi, dovremmo avere invece un ospite da Parigi, però ne parliamo solo quando c'è la linea, perché poi dovesse non esserci la linea, è peccato. È peccato annunciare di cosa stiamo parlando, vero George? Sì, anche se in realtà secondo me pittilla la papilla gustativa. Annunciare sì, qualcosa. Così allunghiamo un po' l'attesa, alimentiamo l'attesa, però vi posso dire che è un ospite balcanica, viene dai Balcani, nata a Sarajevo, però vive da tanti anni a Parigi ed è edita dal nostro amico Gerard Adam, che come sempre ci suggerisce delle chicche di lettura un po' come la nostra Fiordaliso, veramente straordinarie. E questa volta saremo particolarmente felici di avere quest'ospite al telefono, perché tra gli autori di Gerard ci sono anche autori come Jasna Samić, possiamo dirlo finalmente, che riscuotono anche molto successo, tant'è che ha vinto il premio Gaucher Philippot, molto ambito, quest'anno, quindi nel 2014. Quindi insomma parliamo di un ospite di un certo calibro, esperta anche di lingue orientali. Vabbè, però. Quindi insomma sicuramente questa sera parliamo del Portrait de Balthazar, per l'appunto il romanzo col quale ha vinto il premio Jean Philippot. Si parla di Bosnia, si parla di, credo ci siano molti elementi autobiografici, ma questo lo lasciamo raccontare alla stessa Jasna. Quindi passeremo dall'italiano al francese, dal toscano di Marco Malvaldi al francese di Jasna. E la quale è anche, probabilmente già l'ho raccontato, un'esperta di Islam, quindi ci saranno veramente vari elementi di cui possiamo parlare questa sera, anche se ovviamente il tempo, ahimè, è tiranno. Quindi praticamente parliamo di un avvocato di Sarajevo che ritorna a Sarajevo dopo qualche tempo e lì si rende conto che qualcosa è cambiato, che la situazione praticamente nel paese non è più la stessa, e quindi questo è un elemento anche molto importante, perché come sapete i Balcani purtroppo sono stati sconvolti dalla guerra più ormai un ventennio fa grosso modo, e sono state tante le personalità che hanno lasciato il paese purtroppo proprio per sopravvivere a quelle che sono poi state le conseguenze di questa guerra. Per quanti tornano a Sarajevo oppure sono stati a Sarajevo ricorderanno quelli che sono ancora i segni sulla città di questa guerra, che effettivamente è stata recente e che è ancora viva, soprattutto tra i sopravvissuti. E sono tanti i romanzi che hanno per l'appunto dedicato spazio a questo momento, ahimè triste, perché siamo alle porte dell'Europa, di fronte ad una situazione come questa l'Europa poi insomma avrebbe potuto fare meglio, poi così non è stato, ma non è di questo che parliamo questa sera. Come vediamo, la linea al telefono è capricciosa, ve l'avevo detto, però l'avevamo preannunciato. Non è in linea telefonico, è la linea ragione, telefonica, George. Quindi in quanto donna è capricciosa. Però forse abbiamo qualche suggerimento, magari a parte il Belgio che gioca tra poco, chissà se magari qualcuno ci può dire come invece sta andando l'altra partita di questa sera, l'altro ottavo di finale tra Argentina e Svizzera. Beh, abbiamo notizie? Non lo so. Argentina ha vinto. l'Argentina ha vinto, quindi vabbè, questo è un risultato abbastanza scontato. Quindi Asna è al telefono, quindi vedi, abbiamo risolto anche il problema della linea, quindi così potremo dedicarci al ritratto di Baldassarre, che tra l'altro sembra ricordare per l'appunto un ritratto del nostro Raffaello, quindi partiamo nell'epoca, anzi partiamo con questo viaggio proprio in epoca rinascimentale. Jasna, benvenuta a Bruxellando, a Radio Alma. Ah, buongiorno, ma io parlo non bene italiano, un poco. Parla benissimo, benvenuta. Benvenuta veramente a Radio Alma, questo non c'era stato comunicato, che parlasse un po' l'italiano, forse avremmo dovuto immaginarlo, però ci dice lei se preferisce l'italiano oppure il francese. Non è possibile, che cosa posso dire? Io ho parlato quando ero piccola, adesso è quanto difficile per me. Bene, allora, mo oggi direi che va a continuare con sé. Potete essere più semplice. Ah, oui, c'est mieux, c'est mieux. Alors, Jasna, étant donné que nos écouteurs, en fait, peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire quelque chose sur toi-même, sur ton parcours, soi-disant d'écrivain? Oui, ben, je peux dire, d'abord, j'ai commencé en tant que professeur à la faculté, je peux dire, mais en même temps, j'ai toujours écrit depuis mon enfance, parce que mon père aussi n'aimait que la littérature, et pour lui, la chose la plus importante, le seul travail était d'ailleurs lire des livres, non seulement écrire. Ensuite, enfin, toute ma famille était un peu écrivain, je peux pas dire écrivain, mais écrivait, quoi. Et alors, donc, j'ai commencé à publier déjà à l'âge de 20 ans. Et voilà, j'ai continué. Ben, j'ai écrit beaucoup de livres, tout genre confondu. Alors, venons maintenant donc au roman de ce soir, le portrait de Baldassarre, est-ce qu'il y a des éléments autobiographiques dans le roman, parce que le personnage principal est un avocat qui retourne à Sarajevo après longtemps? Donc pendant la guerre, en réalité. Que dans chaque fiction de tous les écrivains, il y a toujours une part d'autobiographie. De toute manière, nous parlons quelque part de nous-mêmes. Bien sûr qu'il y a des éléments autobiographiques, bien que ce soit pas complètement autobiographique. Il y a des éléments. Il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai entendues autour de moi, il y a des choses que les autres ont vécues. J'ai tout ça confondu dans ce roman. En tout cas, enfin, il y a une vérité littéraire de toute manière. Et le plus important, c'est que ce soit fiable pour les lecteurs et qu'ils croient à mentir vrai, comme disait l'un des grands écrivains. C'est-à-dire que cette montée de l'islamisme existe non seulement dans le monde entier, mais également chez nous. Et voilà ce que je voulais dénoncer dans ce livre. Donc, à part ce que vous avez écouté, vous avez aussi fait des recherches, des enquêtes. Est-ce que pour retrouver les sources, vous avez eu des difficultés, étant donné que l'argument est quand même assez épineux? Non, je n'ai pas eu de problème, parce que justement, j'ai connu des jeunes et j'étais très étonnée quand j'ai découvert qu'ils étaient complètement indoctrinés. Je n'ai pas eu de difficultés de ce genre, j'ai eu des difficultés de communiquer, oui, mais pas pour connaître. Mais je n'ai pas connu, si vous voulez, les lieux les plus secrets où ce genre de personnages existent et vivent dans les communautés, dans les une sorte de secte. Mm-hmm. Donc, c'est que nous... Je ne suis pas allée, je crois que c'est interdit. D'accord. Oui, c'est interdit pour les femmes en tout cas, mais oui. J'ai connu, je dis, enfin, des jeunes là qui sont proches à ce genre de personnages. Et ça, c'est vrai, hein, ce que je dis dans mon livre. Donc, il y a une très grande partie de vérité. Je trouve qu'il y a un vrai danger. Je trouve aussi que c'est aussi Karadžić et Milošević qui ont ouvert la porte. Grande ouverte pour ce genre de choses, d'idéologie en fait. Est-ce que vous avez remarqué des changements avant et après la guerre, pour vous que vous êtes aussi retourné après la guerre? Évidemment, il y a un grand changement de tout point de vue. D'abord, la religion n'existait pratiquement pas. Et Dieu, avant la guerre, les gens n'étaient pas religieux, ne croyaient pas, si vous voulez. Il y avait une autre croyance, une autre religion, c'était l'athéisme. Donc ils croyaient à, aux personnalités de Tito, etc. Après la guerre, d'abord, ce qu'on voit, c'est le fanatisme religieux. Mm-hmm. Qui a dans, de toutes les religions, non seulement, même les juifs qui étaient les plus laïcs avant la guerre sont devenus maintenant très religieux apparemment. Et donc enfin, quelle est la situation actuelle? Donc quelle est la situation actuelle? Pardon? Donc quelle est la situation? Pardon? Quelle est la situation actuelle de la Bosnie? La situation est très chaotique et très dure et comme moi je vais tout le temps là-bas et ça se dégrade de jour en jour pratiquement. Et avec, vous voyez, il y avait des manifestations qui ont aggravé la situation parce qu'ils ont commencé à brûler les archives et tout ça, et des livres, enfin comme des nazis, c'est bien de s'insurger, mais il faut savoir qu'il ne faut pas brûler des archives et des livres quand même. Et en plus, il y a eu des inondations maintenant, donc la situation est terrible. Il y a trop de peuples. Vous savez, tous les deux ans, là-bas, il y a des élections. Et les gens, pendant un an, ne pensent qu'aux élections, c'est-à-dire les dirigeants. Et l'autre partie de l'année, c'est le Ramadan, le mois de Ramadan. Donc, ils ne font rien du tout, quoi. Voilà, le plus court, brièvement, ce serait ça. Yasna, est-ce que vous êtes en train de travailler à d'autres romans ou vous vous êtes beaucoup engagée? Oui, je suis en train de travailler. D'abord, j'ai encore en vue plusieurs livres qui doivent sortir. J'ai écrit... aussi un grand essai philosophique sur le mysticisme et mystique entre guillemets parce que j'étais je suis enfin toujours si vous voulez le spécialiste du soufisme, c'était ça mon domaine. Et ensuite je termine un autre roman pour lequel j'ai eu le prix je suis lauréate donc de mission Stendhal. Ici, ça s'appelle « Les contrées des âmes errantes ». Je suis en train de terminer ce roman qui parle justement des gens qui sont venus de beaucoup de quatre coins du monde, se sont retrouvés à Sarajevo et après ils ont été chassés de nouveau avec l'histoire. Ben Yasna, est-ce que ces romans vont paraître avec Méo Édition ou avec d'autres maisons d'édition, peut-être en France? Et il y a un roman qui va paraître, qui devrait paraître à Méo Édition, qui s'appelle Mrazi Pepe en Savoie-Poise, donc le givre des deux printemps, je l'ai écrit en français comme ça, mais on verra. Mais celui-là, je n'ai pas encore tout à fait terminé, donc je ne sais pas. Il y aura encore du temps alors. Espérons. Peut-être. Yasna, donc on vous remercie pour votre présence ce soir à Bruxelles et on rappelle aux auditeurs donc Portrait de Baldassare et vous pouvez facilement le retrouver à Bruxelles ou en consultant le site web de la maison d'édition Méo. Yasna, on vous souhaite tout le mieux. Merci beaucoup et je voudrais dire aussi que j'ai eu un prix récemment pour ce même roman. Oui, on l'avait dit au début, donc c'est le prix Gaucher Philippot. Ou c'est encore un autre? Ça, oui, et on peut le trouver aussi à Paris, à la FNAC, ce livre. Donc, pour ceux qui, en fait, nous écoutent aussi en France, parce qu'il y a aussi quelqu'un qui nous écoute à Paris, vous pourriez facilement trouver ces romans aussi distribués par la FNAC. C'est correct? Voilà. Yasna, oui, un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup à vous e arrivederlo. Arrivederci. Salve. Ci vediamo. A presto. Ed eccoci qui, quindi siamo stati bravi George, vero? Siamo abbiamo stati... soddisfatto veramente tutti. Bravo. E un saluto ancora una volta Gérard Adam per cette rencontre, cette fois-ci, alla radio, donc par telefono. Bisogna fare una serata proprio dedicata alla guerra, dall'altra parte, da Vukovar, perché un bellissimo no? Film Vukovar, Post Restante, che non si vede molto in giro, che è difficilissimo reperire, ma che è bellissimo. Ma non beh, ce ne sono tanti successi, George, di cui sono... potremmo parlare, però vorrei lasciare la parola. Allora, Fiordaliso, perché mi ha incuriosito prima quando Casper parlava, perché hai detto che avevi suggerimenti molto interessanti, quindi alla vigilia delle partenze per l'estate direi di... Libraico. Questo è il bello della diretta. Librangolo. Grazie. Ce l'abbiamo fatta. Che bella. Con un accento così bello. Una bella Librangolo, con un accento vagamente... questa sfumatura vagamente nordica, piace, bello, bello. Avreste dovuto farlo nello stile della Coppa del Mondo, no? Com'è? Waka waka, questo è vero. Sono rimasto indietro. Va bene. Qual è quello di quest'anno? Voi lo sapete? È di Jennifer Lopez. Ah, è Jennifer Lopez quest'anno. È vero. Io vedo le partite, ma non so qual è la sigla di base. Qual è la sigla? Vabbè, dire, no, brangolo sedere, ma visto che si parla di Jennifer Lopez, che praticamente è un sedere eviterei. Slitterei, passiamo ai suggerimenti. 1-0 per l'Argentina a un minuto dalla fine, al secondo tempo supplementare, qualificata l'Argentina. Palo nell'azione dopo di Desmaili della Svizzera. Che è peccato, forza Desmaili, perché gioca al Napoli, quindi vabbè. Forse giocava, ma non lo so se gioca ancora. E quindi vabbè, cioè, parliamo di un'altra parte della cultura mondiale, stavolta sono seria. Perché cioè, la storia antica romana è comunque, fa parte un po' della cultura europea, cioè si è diffuso anche oltre Europa, cioè tutti sentiamo che di esserci un po' fino al un po' parte, un po' figli, un po' comunque nel nostro possesso. E quindi tanti scrittori anche di altre nazionalità, come Stephen Saylor in questo caso, si avventurano nell'antica Roma. E Stephen Saylor è uno di quelli che proprio ha interiorizzato, se posso usare questa parola, non so se esiste, ha interiorizzato la Roma antica, quindi ne conosce la storia, ne conosce i personaggi, ne conosce anche gli edifici, le feste, eccetera, e riesce a concretizzarli in storie gialle ambientate nell'antica Roma. E il suo personaggio principale è Gordiniano il cercatore, che in effetti ha un grande fiuto per la verità e che gira per i vari momenti, direi così, della storia romana attorno negli anni in cui c'è Cicerone in giro, c'è Cesare in giro, c'è Marco Antonio, c'è tutti i personaggi che noi conosciamo, ma Stephen Saylor riesce a farli proprio tridimensionali e parti di una storia molto viva. Allora, io adesso sto leggendo una serie, cioè proprio sto leggendo uno dietro l'altro perché mi è venuta voglia. Ecco. Mi ha scritti molti, purtroppo tradotti in italiano non ce ne sono così tanti e in effetti vorrei anche discutere di questo, cioè qual è questo fenomeno che c'è questa distanza presa rispetto eventualmente a romanzi che sono anche ben scritti, sono dei gialli interessanti, hanno anche degli elementi culturali molto interessanti che appartengono anche alla cultura italiana e comunque... Cioè i libri non sembrano di proprio di trovare abbastanza lettori, non so, comunque non hanno abbastanza successo per poter essere tradotti. Non lo so. Comunque io ve lo raccomando, cioè io mi sto divertendo un sacco, adesso sto leggendo particolarmente Lo schiavo di Roma, che è ambientato a Baiae, come preferisci? Come si dice? Baia? No, Baiae, Baiae, quello accanto a Napoli. Baiae. Baiae, scusi, la mia pronuncia latina lascia da desiderare. Quindi è ambientato in questa cittadina che era un po' una perla nella baia di Napoli, con delle ville lussuosissime. Era la Monte Carlo dei tempi, esattamente. E uno riesce, cioè, da un lato vedere queste ville, anche l'arte, che purtroppo era tanto effimera, ce n'è rimasto pochissimo di quello che... quello che per esempio nelle ville di Baiae si avrebbe potuto vedere nei tempi antichi ovviamente c'è un crimine commesso e Gordiano è chiamato da niente di meno che Crasso, si chiama Crasso. Crasso. È vero? Cioè io lo sto leggendo in ungherese abbiamo conservato l'abitudine di chiamare le cose per nome, Crassus. Voi invece, figli abbrutiti di Roma, lo chiamate Crasso. Quindi, alquanto abbruttiti. E quindi, cioè, niente meno che Crassus lo chiama in casa sua, per risolvere il problema, e sembra come se il delitto abbia qualcosa a che fare con la rivolta degli scavi di Spartaco, che proprio è in svolgimento durante questo periodo. Quindi Gordiano sta cercando di un po' di scoprire cosa succederà. Ma ci sono altri libri non sempre tradotti in italiano, per esempio ce n'è uno in cui il giovane Gordiano sta facendo il giro delle sette meraviglie del mondo antico, e anche quello è bellissimo, cioè sì. ad ogni tappa ci sono varie avventure in cui lui per la prima volta sta dando segno delle sue capacità di investigatore. Allo stesso tempo comunque c'è anche questa rappresentazione davvero molto viva, molto quasi toccabile di quel che avrebbe potuto vedere o la gente che avrebbe potuto incontrare, e per questo motivo comunque, se in inglese, se in italiano, come volete, vi raccomando vivamente di mettervi le mani su Steven Sadler, su qualsiasi dei suoi libri della serie Roma Subrosa, e di divertirvi sotto l'ombrellone o fuori dall'ombrellone, come volete. Steven Sadler, S-A-I-L-O-R, Sadler. S-A-Y-L-O-R. Beh, è un marinaio anche Steven lui, dai, Sadler. In un modo o in un altro, quindi, e il viaggio di Bruxellando continua. Cari amiche e cari amici, siamo al termine anche di questa bellissima e ricchissima puntata. Ovviamente ringraziamo Casper e Eulalì per la loro graditissima e frizzante, oserei dire, presenza qui con noi questa sera. Futuro. Grazie futuro. A lei, grazie a loro. Veramente non futuro, bravissimi. Vero, fra poco ci manderanno in pensione a me, George. Non ancora. Dani M invece per il momento è ancora là, la sua poltrona da regista ancora non è messa in discussione. Bisogna parlare con quelle di un'università tecnica a questo punto. Già sta pensando pure lui. Stai pensando che tu la risonanza multipla.